El haber tenido cerca a Isabel la Golondrina, a Carmen, a la Lole, al tío Miguel, al tío Juan, al tío Pepe, a Bichuela, a la tía Concha, a todas esas mujeres, a todos esos hombres que eran de la danza, que eran auténticos, que eran los auténticos, los oriundos, ¿no? Auténticos del Sacro Monte. Y entonces te los escuchas jaleando, todos esos jaleos, esas cosas, esas gracias de ellos, esos chistes, esa conexión a la hora de tocar las palmas, a la hora de manera natural, ¿no? Mamá, ya no me quiere. Gogora emankizuna euskal irratietan. James Brown etopiara entzun berri dugu alemaiu esete. Buda diskoetxeko hogeita hamar bilduma etiopiko bati esker ezagutu ahal izan du Europak. Aurretik buleriaz bat entzun dugu, Jerez de la Fronterako flamenkorik bereizgarriena, erritmo bizkora duena. Jarrai dezagun Suadazla, kantariarekin eta Aisha izen buruarekin. Baien wahid Allah, ya Allah. Oh, العزيز Show you not go bow. And when we touch the stage, the people them a say, Them all a jump and a shout out hip hip hooray. We have different style fi give them. Draggy vibe fi give them. Love we have fi give them. Even enemies we see them. It's a na na na na na na na na na na na. Tell them the ragamuffins in your area. Na na na na na na na na na na na. Let all the ragamuffin ramen the roots, ramen the culture. It's a na na na na na na na na na na na. Put you one in the air and represent the future. Na na na na na na na na na na na. This is a legendary hit. It's on another boom shot. Scaramucci Panta Paddy Gallem. Now prospect the high train. Scaramucci a young size. Yeah, the soda. Straight come from West Indies, more than in Africa. And anywhere we go, we nice it up. Select all and pull it up. Hey, Yanni. I don't think I'm just gonna stop, sit down. I don't necessarily mean singing or I'm not a lecturer, I'm not a writer, I'm not a I'm just I guess I'm a performer, but I feel creative. I feel I need to be around people. I like it now. And I don't know what I'm going to do, but I'm not going to stop. I'm not going to stop. I'm not going to stop. Gogora emankizuna euskal irratietan. Damon Locks eta Black Monument Ensemble entzun berri ditugu. Jazzaren eta gospelaren nahasketa ameslari honetan, erritmo unkigarri eta hipnotikoekin, larrialdi sozialari buruzko mezuak ugariak dira. Ghanako Cosbersem rock taldearekin segitzen dugu. Naya

Buonasera, questo è Disco Gogorra, il programma di musica che fa il giro del mondo, presentato da Francis Facultatif su Radio Gure Irratia. Disco Gogorra, munduko musikak gozatzeko emankizuna. Mendebaldeko Afrikako hiru abesti entzun berri ditugu, Ganako Kosbersem taldearekin hasi ginen. Gero, Orkestre Poliritmo de Cotonou talde beningar mitikoa entzun dugu, eta Kongoko musikaren kasu berezi batekin bukatzeko, Kashai All Stars. Kashai eskualdeko 25 musikariz osatutako kolektiboa da, baina bost etnia ezberdinetakoak, bakoitzak bere kultura, hizkuntza eta musika tradizioak ditu, batera ezintzat jotzen ziren artista hauek indarrak batzea erabaki zuten arte. Segi dezagun, Afrikan, Burkinako Samso Jaek, Tomas Sankarari egindako omenealdiarekin. La cotonade, produit au Burkina Faso, tissé au Burkina Faso, cousu au Burkina Faso, pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas une destinée de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Sankara, Sankara, mon président. Sankara, Sankara du Burkina. Il est venu en homme intègre pour bâtir une Afrique digne. Sankara, Sankara, Sankara. Sankara, Sankara, mon président. Sankara, Sankara du Burkina. Il est venu en homme intègre pour bâtir une Afrique digne. Sankara, Sankara, Sankara. Le soleil ne se couche jamais. C'est l'homme au contraire qui s'éloigne de la lumière de Jah. Sankara, Sankara, Sankara. Le soleil ne se couche jamais. C'est l'homme au contraire qui s'éloigne de la lumière de Jah Rastafari. Sankara, Sankara, Sankara. Sankara, Sankara, mon président. Sankara du Burkina, il est venu en homme intègre pour bâtir une Afrique digne. Sankara, Sankara, Sankara. Par ton sacrifice suprême. Sankara du Burkina, il est venu en homme intègre.